con la regista Martina Melilli per presentare il suo documentario My Home in Libia. A Roma, la Casa Internazionale delle Donne, proiezione e incontro con l'autrice, mercoledì 10 luglio 2019. Martina, ben trovata. Grazie mille. Lo raccontiamo a chi ci ascolta? Sì, cercherò di riassumerlo in poche parole. Sostanzialmente, My Home in Libya è la storia di Tripoli tramite una ricognizione dei ricordi del passato dei miei nonni, che ci sono nati e vissuti fino al 70, e non potendo poi io andarci di persona perché ho iniziato a fare questa ricerca in tempi storici avversi, era più o meno il 2011, e ho cercato tramite la rete, tramite Facebook, un ragazzo che vivesse lì e abbiamo iniziato un carteggio virtuale che ci ha permesso di rintracciare nella Tripoli di oggi i luoghi che appartenevano alla vita passata dei miei nonni. E quindi il film si sviluppa attorno a questo rapporto di amicizia che cresce via web, attorno a questa chat, e insomma fa questi salti tra il passato e il presente di Tripoli in Libia. Come nasce l'esigenza di farne un documentario? Come ogni documentario, credo sia la spinta a raccontare una storia più o meno viscerale. Per me era alquanto viscerale, in quanto appunto è la storia della mia famiglia, una storia a cui ho avuto accesso tardi, perché per vicende familiari appunto non ho mai avuto una grande relazione con quella parte di famiglia e quindi con quella parte di storia del passato che è anche parte del mio passato in qualche modo, e quindi sentivo l'esigenza di ricercare un po' in una parte sconosciuta delle mie radici quello che poteva essere qualcosa che mi sfuggiva ancora oggi di me come individuo, come persona. A questo si intersecavano comunque i miei interessi accademici, di studio, di artista, nel raccontare una storia che è passato ma è anche presente, è una parte sostanziale del passato del nostro paese, se ne parla sempre molto poco, se ne parlasse di più sarebbero molto più chiare ed evidenti certe dinamiche totalmente attuali, quindi era un po' questo insieme di cose. Su cosa hai voluto centrare il racconto? Il racconto è centrato sull'amore, credo, sulle relazioni che ci legano ad un luogo, ad una storia, ad una persona e che ci formano come individui, e sul mare, credo questo. E come lo hai strutturato? Il film si struttura appunto attorno a questa chat, sostanzialmente a questo scambio di messaggi, è un film che dà molto da leggere e dà molto da ascoltare, ma poche parole, è più un insieme di immagini e suoni, è costruito su molti livelli di immagini di diverso tipo, di testo di diverso tipo, di suoni di diverso tipo, è molto multisfaccettato, è un grande collage, poi nel film si vede anche. Che circuitazione sta avendo? Allora, il film ha avuto la sua prima ormai quasi un anno fa a Locarno, al Locarno Film Festival. Da lì ha girato molto sia in Europa che all'estero, che in suolo italico, tramite soprattutto festival, quindi una circuitazione prevalentemente festivaliera. Poi a fine gennaio di quest'anno ho vinto il Trieste Film Festival con il premio Salani, che prevedeva anche una circuitazione all'interno di una selezione di film premiati al festival, e quindi con il Trieste Film Festival in tour è andato e continua ad andare, continuerà anche in autunno e in inverno in una serie di sale, soprattutto legate al circuito del cinema d'autore, d'essai, e poi a eventi specifici, così c'è questo bel rapporto con la Casa delle Donne, con la quale avevo già mostrato anche degli altri miei lavori, quindi eventi così, insomma, dedicati più che al film in sé, magari anche all'argomento, alla voglia di scoprire di più di queste tematiche in generale. C'è uno spazio web dedicato a questo lavoro? C'è una pagina Facebook che si chiama My Home in Libya, come il titolo del film sostanzialmente. Sulla pagina Facebook c'è un hashtag My Home in Libya, dal quale è rintracciabile anche un piccolo progetto di nail art, se si può dire. Con il film sono uscite delle cartoline che io ho invitato le persone a trovare, le porto sempre alle serate di proiezione, le spedisco io stessa e poi invito le persone a postare online una foto della cartolina spedirla alle persone che loro amano e poi appunto caricarla online con la geolocalizzazione, di modo che in un paio d'anni si possa rimappare dove sono andate a finire queste cartoline, visto che appunto il film nasce da qualcuno che scrive e continua perché qualcuno risponde volontariamente. E allora ricordiamo l'appuntamento con il documentario My Home in Libia, proiezione e incontro con l'autrice a Roma, Casa Internazionale delle Donne, mercoledì 10 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento alla regista Martina Melilli. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva, grazie mille a voi. Ciao.